Capitolo 25. Il patto. Alla fine di agosto Nan e Dee per la prima volta andavano a scuola. «E stasera sapremo tutto, mamma?» chiese solennemente Dee la prima mattina. Ora, all'inizio di settembre, Anna e Susan erano abituate a quel rituale, però era ancora piacevole vedere due bimbe uscire ogni mattina così piccole, spensierate, ordinate, pensando che andare a scuola fosse quasi un'avventura. Avevano sempre una mela nel loro cestino per l'insegnante e indossavano i loro abiti da femminuccia increspati rosa e celeste, di percalle a righe o a quadretti. Come non si assomigliavano per niente, così non le vestivano mai in modo uguale. Diana, con i suoi capelli rossi, non poteva indossare del rosa, ma che stava bene a Nan, che era la più carina delle gemelle di Ingleside. Aveva capelli e occhi castani, una bella carnagione. E ne era ben consapevole anche a soli 7 anni. Un'indubbia luminosità l'aveva di nascita. Teneva la testa con orgoglio, con il suo piccolo mento impertinente un pochino in evidenza, tanto da essere già ritenuta un po' altezzosa. «Imita tutte le pose e le maniere della madre», disse la signora Alec Davis. «Ha già tutta l'aria e la grazia della madre, a mio parere». Le gemelle erano differenti non solo nell'aspetto fisico. Dee, nonostante la sua somiglianza fisica con la madre, era molto più figlia di suo padre per quanto riguardava carattere e qualità. Aveva già il seme del suo spirito pratico, il suo assoluto buonsenso, il suo brillante senso dell'umorismo. Nan aveva ereditato la fertile immaginazione di sua madre e già, a modo suo, iniziava a vivacizzare la propria vita. Per esempio, durante l'estate si era divertita moltissimo facendo dei patti con Dio. Il succo della faccenda era: se fai una tale cosa, io faccio una tale cosa. Tutti i bambini a Ingleside avevano iniziato la loro vita con il vecchio classico: ora io mi corico per poi passare al Padre Nostro, e quindi erano stati incoraggiati a fare le proprie piccole petizioni usando il linguaggio che preferivano. Che cosa fu quello che diede a Nan l'idea che Dio potesse essere indotto ad esaudire le sue petizioni, promettendo una buona condotta o mostrando forza d'animo? Sarebbe difficile dirlo. Forse una maestra piuttosto giovane e graziosa della scuola domenicale ne era indirettamente responsabile per le sue frequenti avvertenze che, se non erano buone, Dio non avrebbe fatto questa o quella cosa per loro. Era facile rivoltare quell'idea e arrivare alla conclusione che se tu eri questo o quello, facevi questo o quello, avevi il diritto di aspettarti che Dio avrebbe fatto le cose che desideravi. Il primo patto di Nan in primavera aveva avuto tanto successo che compensò alcuni fallimenti. E allora ella proseguì tutta l'estate. Nessuno sapeva di questa cosa, nemmeno Dee. Nan abbracciò il suo segreto e si mise a pregare varie volte e in diversi luoghi piuttosto che solo di sera. Dee non approvava quella cosa e glielo disse. «Non mescolare Dio con ogni cosa», disse a Nan severamente. «Tu lo tratti in modo troppo normale». Per caso Anna sentì e la rimproverò dicendo: «Dio è in ogni cosa, cara. E lui è l'amico che ci è sempre vicino per darci forza e coraggio. Nan ha perfettamente ragione a pregare dove vuole». Però, se Anna avesse saputo la verità sul tipo di devozione della piccola figlia, sarebbe stata piuttosto inorridita. Una notte di maggio Nan aveva detto: «Se fai crescere il mio dente prima della festa di Amy Taylor, settimana prossima, caro Dio, io prendo ogni dose di olio di ricino che Susan mi dà senza fare storie». E il giorno dopo il dente, la cui assenza aveva lasciato uno sgradevole prolungato vuoto nella bella bocca di Nan, cominciò a spuntare. E per il giorno della festa aveva già finito di crescere. Quale segno più certo si vuole di più? Nan tenne fede alla sua parte del patto e Susan era stupita e felice ogni volta che le somministrava l'olio di ricino. Nan lo prendeva senza fare smorfie o protestare, sebbene qualche volta desiderò aver fissato un limite di tempo, diciamo di 3 mesi. Dio non sempre rispose. Ma quando gli chiese di mandarle un bottone speciale per la sua bottoniera, le era scoppiata all'improvviso la mania di collezionare bottoni tra le bambine piccole di Glen, come un'epidemia di morbillo, assicurandolo che se lo avesse fatto non avrebbe mai fatto storie se Susan le dava il piatto scheggiato. Il bottone arrivò davvero il giorno dopo, perché Susan ne trovò uno in un vecchio vestito in soffitta. Un bel bottone rosso incrostato di minuscoli diamanti, o quello che Nan credeva fossero diamanti. Tutte la invidiarono per quell'elegante bottone, e quando Dee non volle il piatto scheggiato quella sera, Nan disse con aria virtuosa: «Dallo a me, io userò per sempre questo». A Susan sembrò essere un gesto angelicamente altruista e lo disse, al che Nan sia appariva e sia provava compiacimento. Ottenne una bella giornata per il picnic della scuola domenicale, quando tutti la sera prima preannunciavano pioggia, promettendo di lavarsi i denti ogni mattina senza che le venisse detto. Un suo anello che aveva perso le fu restituito con la condizione che avesse sempre le unghie scrupolosamente pulite. Quando Walter le consegnò l'immagine di un angelo che volava, che Nan aveva a lungo bramato, mangiò da allora in poi il grasso con il magro nella carne senza lamentarsi a cena. Quando però chiese a Dio di far tornare il suo malconcio e rattoppato teddy bear di nuovo giovane, promettendo di tenere il cassetto del suo comò ordinato, qualcosa si inceppò. Teddy non ritornava giovane, il suo orsacchiotto, sebbene Nancy aspettasse il miracolo con ansia ogni mattina, augurandosi pure che Dio facesse in fretta. Infine si rassegnò sull'età di Teddy. Dopotutto era un buon vecchio orsetto ed era terribilmente difficile mantenere quel cassetto del vecchio comò in ordine. Il nuovo teddy bear che le portò papà non le piaceva e, anche se con molti dubbi della sua piccola coscienza, decise che non doveva farsi troppi scrupoli per il cassetto del comò. La sua fede ritornò quando, avendo pregato per l'occhio mancante del suo gatto di porcellana, la mattina dopo l'occhio era al suo posto, sebbene un po' storto, dando al gatto un aspetto parecchio strabico. Susan l'aveva trovato spazzando il pavimento e l'aveva attaccato con la colla, ma Nan non lo sapeva e con molta allegria mantenne la sua promessa di camminare 14 volte a quattro zampe attorno al granaio. Quale utilità ci possa essere nel camminare a quattro zampe 14 volte intorno al fienile, né Dio né qualcun altro lo può sapere. Ma Nanna non l'aveva mai preso in considerazione. Lei odiava farlo, i ragazzi volevano sempre che lei e Dee fingessero di essere vari tipi di animali nella Rainbow Valley. E forse c'era qualche vaga idea nella sua mente in erba che la penitenza poteva essere piacevole per l'essere misterioso che dava o toglieva a suo piacimento. Ad ogni modo, ideò varie strane acrobazie quell'estate, portando Susan a chiedersi spesso, sbalordita, da dove i bambini tirassero fuori quelle stramberie che poi mettevano in atto. Sa dire perché, signora dottora cara, 2 volte ogni giorno Nan attraversa il soggiorno senza camminare sul pavimento? Come senza camminare sul pavimento? In che modo, Susan? Saltando da un mobile all'altro, compreso il paracenere del caminetto. Proprio ieri ci è scivolata sopra, cadendo a capofitto nel secchio del carbone. Signora dottora cara, crede che abbia bisogno di una dose di medicina per i vermi? Nelle cronache di Ingleside ci si riferì sempre a quell'anno come l'anno nel quale papà ebbe quasi la polmonite e la mamma invece l'ebbe. Una sera Anna, che già aveva un brutto raffreddore, andò con Gilbert a una festa a Charlottetown, indossando un nuovo e grazioso vestito e il filo di perle di Jem. Appariva così bella con quel vestito che tutti i bambini andarono a vederla prima che uscisse. Era meraviglioso avere una mamma della quale essere orgogliosi. Oh, che bella sottogonna frusciante! Sospirò Nan. Ah, quando sarò grande avrò sottogonne di taffetà come quelle, mamma. Credo che ormai le ragazze non indossino più le sottogonne, disse papà. Ho qualche ripensamento, Anna. Ammetto che il tuo vestito è uno schianto, anche se non approvo troppi lustrini. Perciò, ragazza, non cercare di sedurmi con i complimenti. Per il resto della sera sono finiti. Ricorda quello che abbiamo letto sul Medical Journal oggi. La vita non è altro che delicato equilibrio di chimica organica che ti combina umile o modesto. Lustrini? Ma cosa? Sotto gonne di taffetà? Ma dai, non siamo nulla, solo una concatenazione fortuita di atomi, lo dice il grande dottor von Bamberg. Non mi nominare quell'orribile von Bamberg. Sicuramente ha un brutto caso di cattiva digestione cronica. Lui sarà una concatenazione di atomi, io no. Pochi giorni dopo Anna era una concatenazione di atomi, molto malata, e Gilbert era molto preoccupato. Susan si aggirava con la faccia sconvolta e stanca. L'infermiera andava e veniva con ansia sul volto e poi un'ombra senza nome improvvisamente fece irruzione e si diffuse nera sopra Ingleside. Ai bambini non era stato detto nulla sulla gravità della malattia della mamma, e nemmeno Jem se ne rendeva pienamente conto. Ma tutti percepivano il gelo e la paura che percorreva la casa, silenziosamente, tristemente. Per una volta non si sentiva ridere nel boschetto degli aceri e non si giocava nella Rainbow Valley. Ma la cosa peggiore per tutti era che non avevano il permesso di vedere la mamma. La mamma non andava incontro a loro con un sorriso quando tornavano a casa. La mamma non aggiungeva, come per caso, un bacio per la buonanotte. E non c'era la mamma ad alleviare, supportare e comprendere. La mamma non rideva alle battute, con nessuno rideva. La mamma era molto peggio di quando lei era assente, perché allora sapevi che sarebbe tornata e ora invece non sapevi proprio nulla, nessuno ti diceva niente, solo rimandavano. Nan arrivò a casa da scuola molto pallida per qualcosa che Amy Taylor le aveva detto. Susan, è la mamma? La mamma non è, lei non sta per morire, Susan. Certo che no, disse Susan, troppo brusca e in fretta. Le sue mani tremavano mentre le versava un bicchiere di latte. Chi te l'ha detto? Amy. Ha detto, oh Susan, ha detto che la mamma avrebbe un aspetto così dolce come cadavere. Ah, non ti preoccupare per quello che ha detto, mio tesoro. I Taylor hanno la lingua lunga. La tua benedetta madre è malata, ma si salverà, questo è sicuro. Non sai che c'è tuo padre al timone? Oh, Dio non lascerà morire la mamma, vero Susan? Chiese con esangui labbra Walter, guardandola con tale intensità che rendeva molto difficile a Susan pronunciare le sue confortanti bugie. Susan aveva una terribile paura che se fossero bugie, ma era terribilmente spaventata. L'infermiera aveva scosso la testa quel pomeriggio. Il dottore si era rifiutato di scendere a cena. Suppongo che l'Onnipotente sappia quello che sta facendo, mormorò Susan mentre lavava i piatti della cena e ne ruppe tre. Ma per la prima volta nella sua onestà della semplice sua vita, lo dubitava. Nan vagava tristemente per la casa. Papà era seduto davanti alla scrivania della biblioteca con la testa tra le mani. L'infermiera entrò e Nan la sentì dire che per lei la crisi sarebbe sopraggiunta quella notte. Che cos'è una crisi? Chiese a Dee. Io penso che è quello che una farfalla cova fuori, disse Dee con cautela. Chiediamo a Jem. Jem lo sapeva e glielo disse prima di andare al piano di sopra a chiudersi nella sua stanza. Walter era scomparso, era sdraiato a faccia in giù ai piedi della White Lady nella Rainbow Valley, e Susan portò Shirley e Rilla a letto. Nan uscì sola e si sedette sui gradini. Dietro a lei la casa era terribilmente e insolitamente silenziosa. Davanti a lei Glenn era pieno con la luce del tramonto, la lunga strada rossa era velata dalla polvere e l'erba piegata nei campi del porto era bruciata, bianca dalla siccità. Non pioveva da settimane e i fiori cadevano nel giardino, quei fiori che la mamma amava. Nan era concentrata nei suoi pensieri. Ora più che mai era il momento di fare un patto con Dio. Che cosa poteva premettere per fare in modo che la mamma guarisse? Doveva essere qualcosa di grandioso, di strepitoso, qualcosa che per lui valesse davvero la pena. Nan si ricordò quello che un giorno Dicky Drew disse a Stanley Reese a scuola: Io ti sfido ad attraversare il cimitero di notte. A Nan erano venuti i brividi. Come poteva qualcuno passare attraverso il cimitero di notte? Come si poteva anche pensare a una cosa del genere? Nan aveva un tale terrore del cimitero, ma nessuno a Ingleside lo sospettava. Amy Taylor aveva detto una volta che era pieno di persone morte e che non rimangono sempre morte, aggiunse cupa e misteriosa. Nan, da sola, poteva a malapena riuscire a passarci davanti in pieno giorno. In lontananza, gli alberi di una collina nebbiosa e dorata toccavano il cielo. Nan aveva spesso pensato che se fosse riuscita ad arrivare su quella collina avrebbe potuto toccare il cielo anche lei. Dio viveva giusto dall'altra parte, poteva sentirla meglio da lì. Ma lei non ci poteva arrivare, doveva solo fare meglio che poteva lì a Ingleside. Strinse le sue manine scurite dal sole e alzò il viso bagnato dalle lacrime verso il cielo. Caro Dio, sussurrò, se fai guarire la mamma io passerò attraverso il cimitero di notte. Oh, caro Dio, per favore, e se fai questo io non ti darò fastidio per tanto e tanto tempo. Ma fu la vita, non la morte, che arrivò nell'ora più spettrale della notte in Ingleside. I bambini finalmente dormivano. Dovevano aver sentito anche nel sonno che l'ombra si era ritirata silenziosamente e rapidamente come era arrivata. E quando si svegliarono, il giorno era scuro per una pioggia benvenuta, ma nei loro occhi splendeva la luce del sole. Quasi non fu necessario che Susan, ringiovanita di 10 anni, desse loro la buona notizia. La crisi era passata e la mamma sarebbe vissuta.